7. Ascolta e controlla. 1. Io uscirò dopo che avrò cenato. 2. I ragazzi potranno andare a sciare se avranno ottenuto la promozione all'esame. 3. Noi giocheremo a tennis appena avremo terminato la relazione. 4. Lei telefonerà a suo marito appena sarà arrivata a New York. 5. Loro apriranno il portellone appena l'aereo avrà raggiunto il terminal. 6. Noi saremo in ufficio dopo che avremo pranzato alla mensa. 7. Noi saremo felici solo quando avremo risolto tutti i nostri problemi.